Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani. Che ripercussioni ha la crisi finanziaria internazionale in corso sul settore immobiliare italiano? Effetti non nuovi, perché per la verità, anche se questa crisi è accelerata in maniera drammatica nelle ultime settimane, è comunque una crisi in corso da oltre un anno e gli effetti sul mattone li abbiamo già visti e ne stiamo parlando già da diversi mesi. Effetti che possiamo immaginare. Intanto c'è una certa incertezza che grava sulle famiglie italiane magari in procinto di fare l'acquisto della propria prima casa, ma visto e considerato che ci sono effetti abbastanza evidenti sui propri risparmi a causa di questa crisi, magari questa è una scelta che già comincia ad essere rinviata. Con i tassi più alti adesso c'è più difficoltà ad accedere al credito, con la conseguenza che chi vuole comprare ha meno possibilità di farlo ricorrendo ad un mutuo immobiliare, e chi vende deve avere pazienza oppure fare sconti significativi. Insomma, dopo i 10 anni di galoppo, un certo rallentamento nella dinamica dei prezzi e nelle compravendite è arrivato, e naturalmente la crisi finanziaria in corso non può fare altro che alimentarlo. A caccia di occasione nel mattone italiano, è crisi o possiamo ragionare in termini di situazione fisiologica per quello che riguarda il calo delle compravendite in corso e anche il calo dei prezzi ormai palese in molte città italiane? Il tema che stamattina affrontiamo con Alessandro Ghisolfi, responsabile dell'ufficio studi di UBIAC, Guido Lodigiani, responsabile delle ricerche di mercato del gruppo Gabetti, e naturalmente, come sempre, avrete l'opportunità di intervenire chiamandoci all'800 24 00 24 oppure di scriverci al 349 238 6666. E tanto per alimentare un po' il dibattito intorno a questo argomento di questa mattina, vi preannuncio che continuano a salire i tassi interbancari, con l'Euribor a 3 mesi che oggi è arrivato al 5,06%, è il parametro a cui sono indicizzati larga parte dei mutui a tasso variabile nel nostro paese, e quindi le rate delle famiglie che hanno ancora questo tipo di mutuo in portafoglio, se non lo hanno rinegoziato nel frattempo, sono rate che continuano a lievitare. La borsa nel frattempo stamattina è negativa, ne abbiamo parlato anche nel corso del giornale radio. I temi che stanno dominando l'atteggiamento degli investitori sono molti: ancora la massima incertezza intorno al maxi piano di sostegno al sistema finanziario americano messo in campo dal Tesoro statunitense e dalla Federal Reserve. I dettagli verranno resi noti nel corso della settimana durante il passaggio al Congresso americano, ma a quanto pare tutto ciò non basta, così come non basta il cambio di condizione, di status da parte delle due grandi banche d'affari, Morgan Stanley e Goldman Sachs, che diventeranno banche retail, quindi banche al dettaglio, per poter avere accesso ai finanziamenti della Federal Reserve in maniera più agevole. Insomma, tutti i cambi di sistema e di condizioni fondamentali per il sistema bancario americano che ancora non convincono, ancora non bastano agli operatori, che stamattina tornano, dopo aver fatto scendere pesantemente Wall Street ieri sera, a vendere anche l'Europa. Parigi meno 1,45, Francoforte meno 0,67, Londra meno 1,83 e Milano cede l'1,76% sull'S&P MIB. Ad appesantire tra l'altro l'Europa stamattina è arrivato anche l'indice dei responsabili acquisti del settore manifatturiero, che è sceso al di sotto delle attese, per cui ancora ripercussioni sull'economia reale rispetto a questa crisi finanziaria. E abbiamo anche l'euro sul dollaro che continua a correre. Stamattina siamo arrivati a sorpassare di nuovo la soglia di 1,48 per tornare a scendere adesso a 1,47,80. Tendenza lo scivolone del dollaro che porta il petrolio di nuovo a salire. Insomma, un mix di fattori che probabilmente ancora dovremmo commentare a lungo e che stanno determinando la forte incertezza fra gli investitori a livello internazionale. In ogni caso, il petrolio, dopo la fiammata di ieri a Wall Street, oggi torna un po' a scendere, siamo comunque intorno ai $106 al barile. Per quello che riguarda i futures sul mercato americano, il Brent a Londra è ancora un po' sotto, a $102,90 al barile. Lasciamo la borsa, andiamo però ancora ai nostri investimenti, quelli più solidi, di quelli forse a cui gli italiani sono più legati, quelli sul mattone. Come stanno andando? Il rallentamento era già partito oltre un anno fa. La crisi finanziaria non ha potuto che accentuarlo. Dopo oltre 10 anni di aumenti nei prezzi delle case e crescita delle compravendite, che dalle 600.000 del 99 hanno superato quota 800.000 nel 2007, era logico aspettarsi l'inversione di tendenza. Nel primo semestre di quest'anno le compravendite sono calate fino al 15% rispetto allo stesso periodo del 2007, circostanza che ha già cominciato ad avere i suoi effetti sulle dinamiche di prezzo. Meno 7% è infatti il calo medio a livello nazionale dei prezzi delle abitazioni, secondo i dati del rapporto UBH sul mercato immobiliare. Inoltre, si sono dilatati i tempi delle compravendite e possono servire più di 5 o 6 mesi per chiudere una trattativa. Pur di firmare il contratto, i venditori giocano al ribasso. Così si è allargata in media del 15% la forbice tra prezzo iniziale e finale di vendita. Sul fronte dei prezzi, le città che hanno subito i maggiori ribassi nel primo trimestre del 2008 sono Napoli e Palermo, meno 9%, seguite da Roma, meno 8,3%, e Milano, meno 8%, ma in tutti i capoluoghi di provincia esaminati nel rapporto UBH domina il segno meno. Tengono solo gli immobili di nuova costruzione, per i quali la domanda è ancora superiore all'offerta, e quelli di pregio o ubicati in zone centrali. La principale causa di questa flessione è stata la stretta degli istituti di credito. Da una parte sono aumentati i tassi di interesse sui mutui. Il tasso di riferimento della Banca Centrale è passato dal 2% del 2003 al 4,25% di oggi. Dall'altra, le banche chiedono più garanzie ed erogano prestiti con minore facilità di un tempo. Ma l'indecisione regna anche tra gli acquirenti, incerti per l'attuale crisi economico-finanziaria. Sempre più importanza nella decisione d'acquisto sembra infatti rivestire il prezzo dell'immobile, sul quale è bene comunque trattare. Oggi infatti è proprio l'acquirente a godere di un maggior potere negoziale, dovuto all'accresciuta offerta di immobili sul mercato. La situazione però volge al cambiamento. Se i prezzi dovrebbero rimanere stabili fino al 2010, le compravendite potrebbero avere un nuovo slancio già dall'anno prossimo. E molto dipenderà dalla crisi finanziaria in corso, della quale chiederemo conto e un commento, un giudizio anche ai nostri ospiti di questa mattina. Saluto e ringrazio di essere qui con me a Milano. Alessandro Ghisolfi, responsabile dell'ufficio studi di UBH, benvenuto, ben trovato anzi. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Si ricompone l'accoppiata d'eccezione che stabiliamo sempre quando parliamo di ambito immobiliare, e quindi un ben trovato anche a Guido Lodigiani, responsabile delle ricerche di mercato di Gabetti Property Solution, quindi Gruppo Gabetti. Lodigiani, buongiorno anche a lei. Grazie, buongiorno. Stava già divertendo, eh? Sì. Sono un po' meno divertiti invece gli ascoltatori di Salvadanaio, in procinto di decidere se è il caso in questo momento di investire nell'ambito immobiliare. Allora, vivacizziamo subito la nostra trasmissione e poi ovviamente metterò a confronto anche i vostri due ultimi rapporti, perché in molti aspetti si assomigliano, in altri invece divergono parecchio, per cui mi piacerebbe capire come li avete anche condotti ed elaborati. Gianluigi da Mantova, benvenuto. Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora, lei è tra gli indecisi che abbiamo definito nella nostra scheda, Gianluigi? Sì, sì, infatti come ho detto. Io posso dire una cosa, faccio una premessa. La faccia. Ho sentito la notizia che avete detto voi, io non voglio essere drastico, però dopo quello che ho sentito in questi due minuti passa la voglia di investire, di rischiare. Perché, Gianluigi? Io ho 52 anni, non sono ai livelli di quota 90 come dicevano i tempi del prima della guerra, però sentire che tutto il fattore che sale e scende, il prezzo, i rischi, le banche non danno più prestiti, c'è titubanza da parte mia e di mia moglie, chiedevo, ci date una consolazione? Gianluigi, speriamo, ci mancherebbe altro, ma sa com'è, come tutte le tendenze, come sempre capita nell'economia, ci sono cicli e ricicli storici e di conseguenza anche economici. Questa è una fase di riflessione, anche perché dopo un decennio di crescita senza sosta era anche normale che arrivasse. Certo, la situazione finanziaria in corso, Alessandro Ghisolfi, complica un po'. Beh, ha complicato, sì, complicato soprattutto appunto, come dicevamo, per coloro che devono comprare e che magari non hanno una disponibilità liquida, non dico importante, ma comunque una base, e per cui devono ricorrere a un finanziamento che sia appunto intorno, se non proprio del 100%, rispetto al valore dell'abitazione. E questo non è detto che sia poi tra l'altro esattamente una cattiva notizia. No, infatti, diciamo che cattive notizie per il mercato immobiliare italiano, se vogliamo, non è che ce ne siano così tante, o comunque le notizie che ci sono oggi sono notizie che bisogna comunque prendere con una certa logica e razionalità. Come dicevamo, il mercato ha corso parecchio per 10 anni, se adesso c'è un aggiustamento dei prezzi anche del 10%, però per chi ha acquistato 10 anni fa un aggiustamento del 10% è poco niente, visto che la rivalutazione è stata oltre il 100%. E poi insomma bisogna anche vedere se questa casa la mette in vendita, magari è un fattore che può considerare con preoccupazione. Se è la casa nella quale abita, se subisce una riduzione del 10% di prezzo, penso che si possa anche sopportare una tendenza di questo tipo. Diciamo che la casa non può essere paragonata come bene sia di investimento che anche come bene speculativo a un'azione, a un titolo, perché è tutto un altro discorso. Quindi non si vuole fare del terrorismo, comunque far preoccupare troppo sul mercato immobiliare, perché ripeto, a meno che uno non abbia comprato nel 2005 e oggi abbia intenzione da vendere, allora probabilmente un guadagno così forte non c'è stato. Però solitamente in Italia chi compra poi rivende almeno dopo 10 anni. Mi pare che però Gianluigi da Mantova, che cercava di cogliere da noi un messaggio di speranza, sia sfuggito un aspetto fondamentale. Abbiamo detto anche molto chiaramente che in questo momento chi vende deve farlo, se vuole liberarsi presto magari del proprio immobile, proponendo anche uno sconto, non accanirsi insomma sul valore che intende fare, che magari aveva la possibilità di fare un anno e mezzo fa. Guido Lodigiani, buongiorno. Allora, vogliamo commentare anche con lei la tendenza che stiamo osservando e soprattutto anche questa ricerca di una speranza per Gianluigi da Mantova. Ma direi il tema dello sconto, della trattativa, più in generale del prezzo corretto a cui proporre l'immobile sul mercato è assolutamente fondamentale, per cui farsi consigliare da dei consulenti, dei professionisti che abbiano una navigata esperienza del mercato, possano vedere e capire i pregi e i difetti di ogni immobile è importante. I professionisti hanno anche dall'altra parte il polso della disponibilità di spesa media in quel quartiere e delle tipologie più richieste, quindi se consigliano un prezzo di vendita è nell'interesse di tutti, che poi questo sia a seconda delle zone, delle grandi città, dei capoluoghi di provincia, nei piccoli comuni, che sia più alto o più basso delle aspettative, è il mercato che lo definisce, sono comunque dei prezzi buoni, su cui c'è stato un importante incremento di valore, e adesso bisogna ascoltare però con attenzione i professionisti, ecco, non ci si può lasciare andare, men che meno adesso, perché si rischia solo di perdere tempo a valutazioni fatte in casa o improvvisate. Professionista, a patto che sia veramente un professionista, perché insomma anche qua dal nostro microfono abbiamo spesso anche commentato l'atteggiamento dei professionisti del settore immobiliari, agenti e quant'altro, che sono stati accusati molte volte di voler fare ovviamente esclusivamente il proprio interesse, quindi di riuscire ad ottenere, a portare avanti, condurre in porto una compravendita sui valori degli immobili molto alti per portare a casa delle laute e provvigioni. Ma questo non è il tema della giornata, e comunque io l'ho raccontato anche in un'altra circostanza a un'amica che fa l'agente immobiliare, mi racconta spesso che deve lottare non poco con i venditori che non vogliono assolutamente abbassare i prezzi e quindi vogliono valorizzare al massimo il proprio investimento, come vogliamo fare tutti. D'altronde però forse questo è il momento di non accanirsi più tanto in questa volontà. D'altronde i prezzi stanno scendendo, abbiamo detto, ma non c'è niente di così drammatico, ci stiamo assestando, credo, Ghisolfi, su valori assolutamente non drammatici. Insomma, il calo più dirompente che voi per esempio avete registrato con il vostro rapporto UBH, dove l'avete registrato, insomma dove i prezzi stanno scendendo tanto? Beh, se parliamo di grandi città, di aree metropolitane, sicuramente Napoli è una città che sta soffrendo di più. Bisogna fare appunto quella precisazione che dicevo prima della trasmissione, ovvero che comunque i cali dei prezzi a cui noi facciamo riferimento è soprattutto riferito alla tipologia delle abitazioni cosiddette usate, cioè le abitazioni, che gli appartamenti che uno acquista e nel quale prima di entrare comunque deve fare alcuni lavori per rimetterli a posto, cioè non è che compra e può entrare ad abitarci direttamente perché sono stati completamente ristrutturati o sono di nuova costruzione. Quindi le tipologie che in questo momento dalle nostre agenzie risultano quelle con i prezzi più bassi sono proprio quelle soprattutto identificate nelle zone periferiche e semicentrali delle grandi città e delle, anche comunque dei comuni capoluogo di provincia medi, con, ripeto, con questa caratteristica, cioè di essere abitazioni cosiddette usate. I cali più forti, ripeto, ci sono stati sia nel sud ma anche in città come Firenze piuttosto che come Milano o come Torino, ma è un calo che già noi avevamo segnalato alla fine del primo trimestre con il nostro report trimestrale in cui parlavamo di cali intorno al 3%, quindi niente di sorprendente, soprattutto pensando che la domanda e quindi le compravendite sono già calate nel 2007. Infatti il 2007 si è chiuso con un dato nazionale del -4,6 e per le grandi città tipo Milano, tipo Roma, eravamo anche oltre il -10-11%. E come sempre avvenuto sul mercato, prima calano le compravendite, certo, poi con 6, 8, 12 mesi di ritardo iniziano secondo a calare prezzi. I prezzi. Le compravendite che peraltro sono ritornate sui valori del 2000-2001 come valore la assoluto. La stima è quella. Infatti. Sì. Poi, ripeto, mi piacerebbe mettere a confronto i vostri due report, però continuo a sentire anche i nostri ascoltatori per così anche cercare di capire quali sono le perplessità più forti che ci sono in circolazione intorno a questo tipo di investimento. Stefano da Varese, benvenuto. Sì, buongiorno. Il mio intervento riguardava, diciamo, un po' un salvataggio di quello che sono le proprie disponibilità di una persona, no? Sì. E nel mondo immobiliare io trovo che oggi, come forse è sempre stato, una delle forme migliori di salvaguardia del proprio patrimonio è investimenti in immobili di pregio o belli, non tanto grandi, in posti belli, ecco, cioè cose piccole ma di pregio, che forse è l'unica difesa che si ha contro un continuo incremento degli immobili, certo, anche oltre il dovuto. Ecco, Stefano, la ringrazio per la sua riflessione e la giro subito ai nostri interlocutori. Guido Lodigiani, il mercato del lusso, certo non accessibile a tutti, molto più facilmente accessibile ovviamente per un investitore puro più che per una persona che invece intende effettuare l'acquisto immobiliare per la prima casa, per la prima abitazione, però è davvero un mercato, come dire, immune da ogni tipo di scossone? Ma dividiamo la risposta. Anche il mercato del lusso sta subendo in modo diverso, perché chiaramente la clientela è facoltosa, cerca altri prodotti, altre esigenze, però tende a stare un po' di più alla finestra, cerca l'occasione, si guarda intorno anche in questo segmento. Per rispondere all'ascoltatore, direi che è assolutamente azzeccata la sua idea. Il piccolo taglio è molto interessante perché difende meglio il valore dei tagli più grandi, perché sta cambiando anche la società italiana con la parcellizzazione dei nuclei familiari e c'è una domanda molto forte nelle grandi città. Quindi il piccolo taglio, le dice, comunque a prescindere dal fatto che possa essere di lusso o meno, piccolo taglio in assoluto. Piccolo taglio tout court. Poi faceva riferimento l'ascoltatore anche alla location, che come dicono gli inglesi location is location, cioè rimane un valore, una zona servita nel verde, con negozi, tranquilla, ben collegata, questa rimane sempre un valore molto più. Ecco, magari che altre zone più rischiose su cui ci sono dei progetti ma di cui non si conosce magari il timing esatto. Ecco, qualcosa in questo momento che c'è già probabilmente e più cautelativo. Commentando la tendenza del mercato immobiliare italiano, ci sono molti aspetti interessanti da analizzare, a prescindere dal netto calo delle compravendite che questo 2008 sta registrando, a prescindere dal calo dei prezzi che si sta cominciando a manifestare in molte città italiane. Ghisolfi, Roma e Milano sono sempre le città apripista delle tendenze nel nostro paese, o hanno perso questo primato, questa caratteristica? No, io direi che tutto sommato sono sempre le città apripista, soprattutto per i mercati appunto delle grandi aree metropolitane, anche se in verità studiando un po' i mercati da una ventina d'anni ho visto che questa tendenza si è andata un po' a affievolire, un po' per merito anche delle altre città che si sono sviluppate, riqualificate, forse anche meglio, tipo mi viene in mente Torino perché ha avuto l'occasione delle Olimpiadi, con i giochi olimpici invernali, eccetera. Sì. Quindi sono eventi che poi alla fine influiscono comunque sul mercato locale. Continuiamo a sentire i nostri ascoltatori, che problemi hanno, a che fase e in che fase sono della propria trattativa per un acquisto immobiliare, immagino, ma forse Giulio da Roma non ha esattamente un affare da concludere, forse vuole così commentare in senso generale il mercato immobiliare. Giulio, benvenuto. Sì, pronto, buongiorno. Ci siamo, buongiorno. No, in realtà io ne avrei anche più di uno di affare da concludere. Va bene, meno male, qualcosa ancora si muove allora, Giulio, insomma non siamo proprio così negativi. No, mai. No, volevo semplicemente fare un ragionamento, ragionamento che faccio io, e volevo una conferma al mio di ragionamento, che è questo. Visto l'andamento catastrofico che hanno visto i mercati azionari, sì, probabilmente invece io penso che forse l'investimento giusto continua a essere quello del mattone, quindi di conseguenza il mattone si dovrebbe apprezzare. Guardi, ecco, Giulio, questo è un po' il ragionamento, perché chi ha della liquidità metterla sull'aspetto borsistico, diciamo, io credo che non sia, da un punto di vista psicologico, visto il momento, non sia una delle cose migliori. Quindi certo, probabilmente invece ci sarà una richiesta proprio per gli immobili, visto che comunque mantengono sempre un certo prezzo. Ecco. Giulio, io guardi, le posso dire una cosa, che personalmente sono d'accordo con lei, perché se io potessi mi comprerei 10 case. La questione è che comunque queste case vanno comprate con i soldi che la banca ci presta, e comunque non è possibile separare completamente i due discorsi, cioè valutare da una parte l'andamento del settore immobiliare e dall'altra parte quella del comparto finanziario, perché mai come in questi anni Ghisolfi sono stati indissolubilmente legati, per cui la considerazione di Giulio io la ritengo assolutamente interessante. Se il mercato finanziario va così male, allora perché mai proprio adesso non puntare sul mattone? Il problema è che è un po' difficile farlo, proprio perché abbiamo visto come questo si sia mosso anche proprio per l'effetto del mercato, certo, finanziario. Ma il ragionamento, per carità, è giustissimo e tante volte è stato applicato nella maniera giusta, anche perché in passato si diceva sempre un po' va male la borsa, va bene il mattone e viceversa, però abbiamo visto anche che non era così vero, perché abbiamo avuto periodi in cui il mattone andava molto bene ma anche la borsa dava delle belle soddisfazioni. Il fatto oggi che comunque pensare di smobilizzare patrimoni magari che sono gestiti attraverso appunto strumenti di finanza mobiliare, quindi con fondi piuttosto che titoli di stati eccetera, per acquistare immobili, è un ragionamento che sicuramente stanno facendo tante persone. Il fatto è che siccome ci troviamo però in una fase del mercato in cui i prezzi delle abitazioni, soprattutto quelle di media e bassa qualità, hanno raggiunto i loro picchi, non è facile anche per chi vuole smobilizzare la parte finanziaria e investire nella parte, diciamo, appunto solida del mattone, trovare il prodotto giusto sul quale investire. Per cui direi che quello che dice l'ascoltatore è giusto, e probabilmente lo andremo a verificare tra un po', cioè nel momento in cui, se effettivamente si concretizzerà questa domanda di coloro che disinvestono da una parte per investire dall'altra, riusciranno appunto, questa domanda riuscirà a trovare l'offerta giusta. Allora in quel caso ci potrebbe essere un'ulteriore crescita di alcuni valori. ma non è detto che in questo momento sia già così. 800 24 00 24, vorrei sentire anche Guido Lodigiani sulla riflessione che ci ha portato il nostro ascoltatore di Roma, che si chiede come mai proprio una crisi del mercato come quella che è in corso in questo momento non porta invece di nuovo nel mattone un'inversione di tendenza, proprio perché è provocata dal disastro dei mutui dal real estate americano. Ma diciamo che è quello che è successo nel 2001, c'è una grande crisi borsistica e una crescita dei valori immobiliari a due cifre ed è durato alcuni anni, però insomma la storia non si ripete di solito sempre in modo identico. Adesso siamo di fronte a una crisi più globale che è partita dalla finanza, riguarda l'economia e tocca anche il mattone, a dire la verità, più anglosassone, più spagnolo che italiano. Uh-huh. In questo contesto, è un'operazione possibile, ma la vedo più come riallocazione nel proprio paniere di investimenti per dedicare una componente importante, quindi alla stabilità, alla solidità, e lasciare poi altri investimenti magari più speculativi. Sì. Perché comunque nel contesto generale penso che ci siano delle dinamiche più sociali che riguardano il mercato, che interessano anche il mercato immobiliare odierno, per esempio l'uscita di casa ritardata da parte dei giovani ha un impatto potenziale sul mercato immobiliare, il numero di nuove coppie che si vengono a costituire anche. Per questo dico gli immigrati anche, che adesso hanno una maggiore difficoltà, ci risulta, di accesso al credito in questa fase, e quindi tendono a sbloccare meno la parte di mercato più bassa, ecco, a far partire la prima compravendita in una catena che di solito si va a realizzare poi. Allora, Cristian da Milano, buongiorno. Cristian, eccoci qua. Eccomi qua, allora più o meno mi riallaccio a quello che volevo dire io, è abbastanza simile a quello della persona che mi ha preceduto da Roma. Sì. Aggiungerei una cosa, per esempio io ho acquistato un loft qua a Milano, nell'arco di 2 anni e mezzo il valore è aumentato di circa il 300%. Sarà spettacolare, Cristian, che lavori gli ha fatto? No, ok, gli ho messo mano, ma è proprio tutta la zona, vedo, di tutte le grandi rielaborazioni immobiliari sulla base delle vecchie fabbriche dismesse qua a Milano, che hanno avuto degli incrementi ponderosi per quanto riguarda il prezzo nell'arco di 2 o 3 anni. Ma lei è stato lungimirante perché è stato fortunato, Cristian, oppure si è messo scientificamente alla ricerca dell'occasione d'acquisto 3 anni fa in modo tale che poi le potesse produrre questo risultato? Ho cercato disperatamente, il fattore C ha influito in maniera notevole, devo dire. F, fortuna, traduciamolo in termini esatto, più radiofonici, sì. Esatto. Quindi, ma adesso che cosa fa? Lo vuole vendere? Vuole monetizzare? Ecco, l'idea era poi esattamente questa, cioè sulla scorta di quello che state dicendo Aurora. In questo momento, avendo la possibilità di monetizzare, quindi avendo un notevole incremento dal punto di vista della liquidità, conviene, secondo voi, dal punto di vista degli esperti, dire: hai un immobile, te lo vendi, guadagni il massimo e reinvesti immediatamente in altri immobili dello stesso genere, magari certo, anche se magari poi, adesso da qui al prossimo triennio potrebbe non ottenere lo stesso risultato che ha ottenuto con questo loft. Però mi chiedo, Cristian, intanto a lei chi ha detto che il valore del suo loft si è addirittura centuplicato, insomma, no, è cresciuto di quanto? Del 300%. Quindi no, mi faccia capire quanto l'ha pagato e a quanto adesso potrebbe ipotizzare di venderlo. Adesso sta intorno a una cifra che è discutibile, però si potrebbe anche essere aumentata, una media di 4.500 al metro quadrato. Uh-huh. Contro una base d'acquisto che varia intorno, secondo il periodo in cui lo si acquistava, tra i 1.500 e al massimo 2.000 euro. Cristian, con box, senza box, allora, eccetera, eccetera. Allora, se mi permette un solo invito, sì, certo. Da una domanda, perché dicevano adesso il discorso della dove mettere la liquidità. Una cosa che io sono ignorantissimo di economia, che però secondo me blocca un po' il discorso del giro degli immobili, è che ricordiamoci che è stata fatta dal governo precedente una tassa sulla plusvalenza, che va a incidere del 45-46%, poi in realtà è quasi un 52% con le spese notarili e tutto, sull'eventuale rivendita entro i 5 anni. È vero che si riacquisti, ma se per caso uno è sfortunato, fa un per qualche motivo non gli consegnano la casa, non riesce a chiudere entro l'anno, qual è la famiglia, dico io, che si vende la casa a rischio di dire ho guadagnato 100.000 euro e ne do 60.000 allo Stato? Cristian, la ringrazio, prendiamo atto della sua osservazione. Credo che però nella crisi immobiliare attuale, oppure in questo ripensamento molto netto che si sta verificando, forse questa è una delle ultime cause che potrebbero aver determinato questa tendenza. Allora, Guido Lodigiani, cosa ne pensa della situazione di Cristian da Milano, di questo strepitoso loft che avrebbe addirittura adesso l'occasione, secondo i suoi calcoli, di mettere in vendita ad un prezzo triplicato rispetto all'investimento fatto 3 anni fa? Dicevamo con Ghisolfi a microfoni spenti, comunque quello dei loft non è un mercato esattamente accessibile a tutti, quindi anche un pochino una nicchia. Sì, non è un mercato accessibile a tutti, funziona molto nelle grandi città, Milano per esempio. Però direi, nel caso di Cristian, assolutamente di vendere subito se ha avuto questo incremento di capitale. Anche se il più 300% diventasse più 250, insomma, per portare le case. Assolutamente, non si vedono di frequente di questi tempi incrementi di questo tipo, però sicuramente è stato attento nella scelta del bene, dell'immobile, probabilmente ha fatto dei lavori anche all'interno che comunque hanno un costo, no? che l'hanno rivalutato ulteriormente, quindi poi vendita per un riacquisto, se, come dire, sempre con attenzione, perché poi bisogna leggere il mercato della propria zona, quindi capirlo, occasioni ce ne sono ancora, ecco, questo è il messaggio. E infatti il fattore tempo è sempre fondamentale in trattative di questo tipo, per quello che riguarda appunto l'investimento immobiliare. Gianluca da Cosenza, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, intanto complimenti per la trasmissione. Mi volevo riallacciare a un intervento che è stato fatto prima da uno dei vostri ospiti in merito alla parcellizzazione del nucleo familiare. E mi chiede, pronto? Sì, ci siamo Gianluca, stiamo ascoltandola con attenzione. Sì, e mi chiedevo da questo punto di vista, insomma in base anche al parere dei vostri esperti, qual è, se si può quantificare, una grandezza ideale per acquistare un immobile? Cioè, più o meno di quanto dovrebbe essere Gianluca, io non sono un agente immobiliare, però intanto ritengo che sia fondamentale capire a che cosa le serve questo acquisto. È la sua casa o un investimento a finalità, proprio come dire, non dico speculativa, ma insomma è proprio un investimento puro per lei? Per esempio. No, esatto, questa seconda ipotesi, cioè nel senso che uno ha della liquidità da investire, ovviamente senza avere la necessità di comprare una casa per sé, insomma, avendo la possibilità economica, di quanto dovrebbe essere più o meno, insomma, la grandezza sulla quale andare a investire. Certo, Gianluca, rivolgo la domanda ad Alessandro Ghisolfi, ipotizzando di poter dire con assoluta certezza che un piccolo taglio a Milano ha un certo valore, a Cosenza un altro, magari un piccolo taglio può diventare un taglio un po' più grande rispetto al piccolo taglio di Milano. Ma se adesso non è detto che il signore è di Cosenza e quindi voglia investire esclusivamente a Cosenza, magari può trovare un'occasione interessante di un bilocale in un'altra città. A me la prima cosa che vengono in mente, sempre nel discorso del puro investimento reddituale, è la classico bilocale da affittare poi a studenti universitari piuttosto che a operatori, che quindi vicino agli ospedali, oppure a professionisti, quindi andare a trovare un bilocale vicino a dei tribunali, insomma dove operino anche dei professionisti. In questo caso la domanda di chi cerca uno spazio in affitto è sempre vivace in qualunque momento. E qual è la metratura vivace? 45-60, faccio io questo range? Il range va benissimo, 45-60 può andare bene, e quindi chiaramente poi sulla base di questa metratura uno misura la sua capacità di spesa, e quindi su Milano chiaramente può avere una spesa intorno anche ai 250-350 mila euro, dipende appunto dalla zona. Su Torino è sensibilmente più bassa e sicuramente nelle città del sud ancora di più, per cui il range comunque dipende esattamente insomma dal territorio in cui l'investimento si vuole effettuare. Tina da Genova, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi chiamata. Grazie a lei. Volevo porre questa domanda. Io ho una casa che cerco di vendere da un anno e l'agenzia alla quale mi sono rivolta mi dice: i prezzi sono notevolmente ribassati, lei deve calare di 10-15 mila euro. Mm-hmm. È giusto questo ragionamento? Cioè devo seguirlo oppure no? Beh, allora Tina, intanto bisogna vedere il prezzo di partenza, che cosa chiede lei per quella abitazione. Diciamo che in questo punto i rapporti di Gabetti e di UBH concordano nel dire che effettivamente c'è in fase di trattativa anche la possibilità da parte del venditore di concedere almeno uno sconto intorno al 15%. Guido Lodigiani. Sì, diciamo questo è quello che registriamo in media in varie città, in varie realtà, però è importante anche il prezzo di partenza iniziale, esatto. Perché se è troppo alto si tagliano automaticamente fuori una parte dei potenziali acquirenti e teniamo conto che l'agenzia ha tutto l'interesse a portarne di acquirenti e a cercare di favorire la trattativa. Quindi evidentemente, non conosco l'immobile nello specifico, però se ritiene un ribasso di 15.000 euro, che voglio dire non è neanche una cifra impossibile, io seguirei il consiglio. Anche perché, visto che adesso, teoricamente, in base sempre alle vostre statistiche, diciamo che una trattativa si riesce a condurre in porto, visto che i tempi si sono notevolmente allungati, in 5-6 mesi, se questa casa è ferma in agenzia, con questo annuncio bello, Tina, della sua bella casa, insomma, da più di un anno, è evidente che qualche cosa bisogna fare perché la situazione si sblocchi, Ghisolfi, e forse credo che lo sconto sia l'unica strada praticabile. Direi proprio di sì. A meno che non trovi una persona che si innamori in assoluto di quella casa lì. Sì, infatti adesso non conosciamo né la zona né l'immobile eccetera eccetera, però quindi sulla carta sentire che comunque l'immobile è fermo da un anno sul mercato è... Tra l'altro mi viene in mente che proprio recentemente abbiamo fatto un piccolo studio e abbiamo visto che più tempo l'immobile resta sul mercato e più alto diventa il rischio di veder perdere i soldi. E più alto diventa lo sconto che deve essere fatto, sì, per poterlo vendere. Ma proprio la curva del prezzo di vendita si va ad abbassare sempre di più rispetto a quando magari io facevo subito uno sconto iniziale, la casa riuscivo a venderla nel giro di 2-3 mesi. Se continuo a resistere su una determinata soglia di prezzo, ecco che alla fine rischio di andarla a vendere a un prezzo molto più basso rispetto a quello anche iniziale. Tra l'altro stavo guardando i vostri due rapporti per verificare quello che avete evidenziato rispetto al calo dei prezzi a Genova. Volevo anche rassicurare Tina dicendole che naturalmente l'agente immobiliare sta facendo il suo lavoro e se le dice che deve ridurre il prezzo, insomma, forse le dà proprio un buon consiglio, tenendo conto del fatto che se la vende ad un prezzo inferiore anche l'agenzia ci guadagna meno, per cui sicuramente non ha un interesse personale a dire guarda, abbassalo. Allora, secondo Gabetti, a Genova nel primo semestre di quest'anno i prezzi sono scesi in media del 3%, per UBH del 6%. Forse avete messo a confronto tagli diversi, Lodigiani? Adesso questo vale per Genova come per tutte le città monitorate? Ma abbiamo dei sistemi di rilevazione simili, diciamo il quadro che ne emerge è assolutamente come dire assimilabile, nel senso una flessione dei valori nominali. Il differenziale poi può essere dovuto al sistema di raccolta dei dati. Noi li confrontiamo per esempio su abitazioni medie in buono stato. Mm-hmm. Prima l'amico Ghisolfi diceva usate, quindi probabilmente un po' più da ristrutturare. Mm-hmm. Ecco. Può essere una delle spiegazioni. Infatti, comunque, insomma, ho dato questa percentuale anche per permettere a Tina di calcolare effettivamente questo 15.000 euro, quanto incide complessivamente nel valore richiesto per la vendita della sua casa e vedere se rientriamo anche in questo range. Salva Danaio termina qui, ma noi continueremo ovviamente a riflettere sul mattone nelle prossime puntate. Grazie ad Alessandro Ghisolfi e Guido Lodigiani per essere stati con noi. Grazie anche a Gaia Romani e Valeria Coffaro per la collaborazione in redazione. Non riesco mai a ringraziarle. Peter Bescapè stamattina in assistenza tecnica. noi torniamo domani, torniamo sui mercati e ancora andremo a caccia di soluzioni per i detentori italiani di bond, Lehman Brothers e polizze a rischio. A domani.